storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera amiche ed amici sulla frequenza di Blu Radio Veneto da parte di Antonio e di Gesi. Abbiamo voluto invertire per una volta la sequenza, naturalmente, anche per vivacizzare la questione. Sì, ma dobbiamo anche fare un'altra cosa, caro Antonio. Esatto. Augurare naturalmente buon Natale a tutte anche le nostre ascoltatrici. Anche se ormai è quasi il termine. Ma lo spirito del Natale deve proseguire, naturalmente. Questa è la cosa fondamentale da capire. Ci sono tutte le feste, Capodanno, l'Epifania. Certamente. Anche perché per noi stasera è l'ultima prima delle vacanze natalizie. Esattamente, concludiamo, diciamo, l'anno in bellezza. E ci troveremo verso la metà di gennaio. Esattamente. Allora procediamo, naturalmente, ricordandovi il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Abbiamo naturalmente la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. Diamo un cordiale saluto e auguri di buon Natale al nostro regista. Naturalmente questa sera abbiamo anche ben due ospiti in studio, illustri ospiti naturalmente, che ci deliziano con la loro presenza. Beh, prima di tutto ci ascoltiamo una canzone natalizia. Stasera saranno tutte canti natalizi, tutte canzoni natalizie. Ma speriamo che a noi piacciono, vero Antonio? Io conto che piacciono anche alle nostre ascoltatrici e allora, ascoltatori. Siccome sono quasi tutte in inglese, Antonio, ti lascio come si intitola la prima canzone cantata dal mio simpaticissimo Michael Bublé, A Cold December Night, una fredda sera di dicembre, una fredda notte di dicembre. Bravo, diciamo, ecco. Bravo. Stockings are hung with care, the children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree, I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line, loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on a bar fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. It won't be wrapped under a tree, I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree, I want something to last forever. 'Cause I don't wanna be alone tonight. I'll wear like a Christmas sweater. To the mistletoe tonight, I want something to last. December night. E adesso è arrivato il momento del primo ospite, dottor Antonio Basso. Caro dottore, buonasera. Buonasera, buonasera e buon Natale. Grazie. E sempre benvenuto. Io avrei sempre tante domande da farle, solo che sono talmente tante le cose da chiedere che tante volte non so quale chiedere. Ok, comunque lei stasera di che cosa ci parlerà? Beh, parleremo della rinascita della città. Abbiamo accennato un mese fa alla fuga delle città in seguito alle invasioni barbariche delle popolazioni che si sono rifugiate a ridosso dei monasteri e a ridosso dei castelli dove i signorotti avevano creato il loro castello. E a un certo momento c'è questa paura dell'anno 1000, 1000 e non più 1000, cosa succederà se non che il 1000 passa senza che avvenga la fine del mondo e la gente comincia a respirare e a vivere un altro clima, un'altra atmosfera. E quindi anche le popolazioni cominciano a tirare questo sospiro di sollievo e dire: ma perché non riprendiamo ad abitare la terra, la pianura, perché non andiamo a riabitare le città? E quindi rinascono le città, soprattutto anche grazie all'attività degli uomini di chiesa. Abbiamo detto, mi pare la volta scorsa, abbiamo parlato di monasteri, cioè questi luoghi di religiosità che erano diffusi sulle campagne e intorno ai quali si coagulava la vita economica dei contadini. Ebbene, a un certo momento abbiamo questi uomini di chiesa cominciano, o ne nascono di nuovi, ad avere un'altra intuizione, cioè non quella di gestire in proprio un'attività produttiva, diciamo pure agricola, ma di cercarla attraverso la elemosina dalle popolazioni che avrebbero dovuto acquisire un'autonomia produttiva propria. E quindi nascono gli ordini mendicanti. Non ci sono più i monaci, ma ci sono i frati. Questi ordini mendicanti vengono a insediarsi soprattutto nelle città. E quindi in una città come Treviso arrivano i francescani, arrivano i domenicani, arrivano i servi di Maria, arrivano gli eremitani, che creano danno vita a dei complessi conventuali veramente notevoli e sicuramente sproporzionati alle esigenze di culto che potevano essere in città. Pensiamo alla chiesa di San Nicolò, quanta gente poteva tenere. Certamente se tutte queste chiese fossero state riempite, chissà da dove doveva venire questa gente, ma sono soprattutto il segno di un benessere economico che la gente venuta a riabitare nelle città disponeva. E chi erano? Erano proprio quei signorotti che si erano ritirati nei castelli e che da Noail, da Campo San Piero, da Camino, da Romano, cioè portavano il nome del paese dal quale venivano queste famiglie nobiliari e vengono a insediarsi in città. La città certamente non è una grande città, la piccola città romana dei muri di cui hanno costruito la strada i Severi Augustales, di cui mi pare abbiamo parlato la volta scorsa, sì. Non è più sufficiente e quindi vengono ampliati i confini della città per accogliere tutta sta gente che si mettono d'accordo tra di loro, si incontrano e decidono autonomamente le sorti della città e danno origine a quello che poi sarebbe diventato il libero comune. Questi nobili, questi cavalieri che venivano dai territori della campagna, si autotassarono in qualche maniera degli armigeri che dovevano garantire la loro sicurezza. Autosufficienza proprio completa. E quindi vengono non solo con i servi che dovevano accudire alle loro famiglie, ma anche a questi soldati, diciamo, che dovevano garantire la sicurezza della città in caso di rivolte. Ma tutta sta gente dove si mette? E allora c'è la necessità di ampliare le case esistenti, di costruirne delle nuove, ma il territorio della città è quello che è, non è che si possano fare i miracoli. E allora viene utilizzata la superficie esistente delle case e con la sopraelevazione in altezza, e si costruiscono quelle che poi sono passate sotto il nome di case torri, che qualcuno ritiene che fossero alte perché per un motivo di esibizione della famiglia. No, no, erano alte perché doveva starci tanta gente dentro. Prototipi, quindi, dei grattacieli. Dei grattacieli. E non solo, ma queste case addirittura, siccome la superficie di base era limitata, come si espandevano ai piani superiori e quindi venivano aggettati verso l'esterno dei volumi superiori a quelli che c'erano al pian terreno. Esatto. E quindi con i barbacani, ecco che queste case, quella caratteristica forma che hanno. Non solo, ma anche il portico. Il portico stesso è una... Adesso il portico è ricavato dentro alla proprietà, pensiamo, così tanto per fare un esempio, alla Banca Cattolica, il portico è ricavato dentro alla proprietà, ma una volta non era così, una volta era il piano superiore che era molto sporgente e per essere sostenuto aveva bisogno di colonne, tant'è che ancora nei documenti catastali dell'Ottocento noi troviamo che le strade nelle quali ci sono i portici si restringono, ma la strada arrivava però fino alla facciata del pian terreno, non quella dei piani superiori. Pensiamo per esempio alla via San Francesco, dove ci sono le case porticate che sporgono e le case senza portico che sono arretrate rispetto a quelle. Questo perché il portico era situato nell'area pubblica, quindi c'è stata questa idea dello sfruttamento, ma questa piccola curiosità, sì, diciamo, di carattere urbanistico che ha avuto il suo tempo. Beh, quello che è importante notare è il discorso del sviluppo che ha avuto la città, l'ampliamento che ha dovuto subire il perimetro urbano. Ed è da queste torri, da queste case torri che nascono poi i palazzi. Beh, i palazzi poi nasceranno anche per altre esigenze, quando i palazzi non erano poi tanti quante erano le case torri una volta, anche se le tracce di quelle che sono rimaste sono poche. Però questo fervore era sostenuto da una vita economica e culturale notevole. Ecco perché a Treviso sorge l'università in quel tempo. È il discorso che mi pare che abbiamo fatto alcuni mesi fa, quando abbiamo parlato di Venezia e dei rapporti economici attraverso il Sile, sì, e della vita culturale che c'era in città grazie a questo collegamento con Venezia. Quindi il nascere della Università a Treviso e una città poliglotta nella quale si parlava in francese a Treviso. E c'è un documento conservato dalla Biblioteca Marciana di Venezia, un manoscritto nel quale si trova l'origine della parola marca. La marca è un documento scritto in un francese maccheronico, diremo noi, nella quale si parla di marca trevigiana, che la marca sarebbe stato non una circoscrizione territoriale, ma un'alleanza di territori che si trovavano in prossimità dei confini, che facevano una specie di alleanza, una NATO dell'epoca, diciamo, sì, così, per difendere le zone di confine. Sì. E poi prendeva il nome di una delle città che erano associate in questa marca. Quindi si è anche chiamata marca veronese, la marca. Sì. E c'è, ripeto, in questo documento l'accenno per la prima volta alla parola marca, che viene definita gioiosa del Trevisan cortese. E chissà perché. Che poi è stata utilizzata, deformata, trasformata per inventare quella dizione ottocentesca di marca gioiosa e amorosa. Addirittura qualcuno ci ha messo il letto per pensare di nobilitarla. Esattamente. Ma, e questo è il clima nel quale l'importanza dal punto di vista culturale è stata data soprattutto dagli ordini mendicanti e soprattutto citiamo i domenicani che erano i predicatori, ma mi piace ricordarlo dato che siamo nella giornata di Natale, i francescani. I francescani che sono, San Francesco almeno così si ritiene, gli inventori del presepio. Per esempio, mi piace ricordarlo oggi perché è il giorno di Natale e quindi siamo debitori proprio a San Francesco di questa dell'istituzione, di questa tradizione di rappresentare questa sceneggiata statica della nascita di Gesù. È una bella tradizione, per esempio, è suggestivo, specialmente una volta. Sì, adesso queste cose sono state trasformate da tradizioni che non appartengono che non ci alla nostra appartengono, cultura, chiaramente, esatto. L'albero di Natale. Non mi piace l'albero di Natale. Io ricordo il presepio con quello profumo di muschio, adesso invece sì, è tutto modernizzato. Noi ragazzi andavamo sulla mura, che ha tutta la parete, il lato settentrionale della mura, che è rivolto a settentrione, tutto quindi una zona ombrosa, muschio, una zona nella quale non ci batte il sole, dove più facilmente nasceva il muschio. E noi ragazzacci ci andavamo ad arrampicare su per la mura a raccogliere il muschio per il presepio. Sì, perché era molto, aveva già quel profumo che emanava il muschio, dava già un senso di, non so. Poi, era una vita più semplice naturalmente di quelle che siamo abituati a vivere oggi, evidentemente. Ci sono tutte luci, ci sono tutta roba che sì, sempre bello il presepio, però non è più suggestivo a mio avviso come una volta. Beh, la semplicità era la caratteristica principale, diciamo, cosa che si è un po' persa negli anni, insomma, ecco. E che non è detto che non ritorni come esigenza di vita. Era una genuinità, cioè le cose erano spontanee. Adesso sono artificiose, sono scopiazzate da modi di vivere che non ci appartengono. E in questo senso noi perdiamo anche la nostra identità, perché... perché facciamo le cose che si fanno dappertutto, quindi non c'è nessun motivo di andare, pensiamo la globalizzazione anche dei sentimenti, certamente, delle cose, ma soprattutto anche delle cose. Che motivo c'è ci sarebbe di andare per esempio in montagna se vedessimo gli stessi grattacieli che si vedono in città, o non vedessimo le montagne perché bisogna spianarle, perché si va in un posto per vedere le cose caratteristiche di quel posto, l'attrattiva turistica che adesso è molto frequentata, che è, c'è una condizione economica che ce lo permette, il turismo è diventato un fenomeno di massa, ma che senso avrebbe se andando altrove troviamo le stesse cose che abbiamo qua? Non ha significato. E quindi perché dobbiamo noi qua privarci delle nostre cose specifiche per fare le stesse cose che potrebbero vedere anche dalle altre parti? E questo è un effetto della standardizzazione, della massificazione delle cose, eccetera, che comporta guadagni, diciamo, appunto, ingenti per pochi, evidentemente, e una cancellazione di tante cose per gli altri. Però adesso nelle case si vede più che altro, più che per esempio l'albero di Natale, e questo mi dispiace perché... Anche se il presepio è in stile moderno, però è sempre un presepio, sempre una cosa che ti segna il Natale. Allora, anche per stasera abbiamo terminato la nostra conversazione e ringraziamo il dottor Basso che sempre gentilmente ci dà delle notizie interessantissime. Ma allora mi dica, dottore, a lei piace, lei fa il presepio a casa? Sì, ho un piccolo presepio, un piccolo gruppo di statuine che sono riuscito a rimettere insieme dopo che la guerra aveva distrutto il mio patrimonio di statuine originario che c'era, e dopo l'ho ricomposto e mi piace metterli lì insieme. Sì, magari un angolino, fare il presepio, perché sì, altrimenti non c'è neanche senso, insomma, del Natale con l'albero solo, pieno di luci, pieno di tutto. Vabbè, dottore, ancora grazie e alla prossima. E ci rivedremo l'anno prossimo. Grazie, a Dio piacendo, all'anno prossimo. Sì. Grazie di nuovo e buonanotte. Ringraziamo ancora il nostro dottor Antonio Basso, rinnoviamo ancora gli auguri di, in particolar modo, di buon anno, sì, beh, buono, prospero, felice, vabbè, insomma. E andiamo con la seconda canzone in programma che il nostro Antonio ci illustrerà. Si tratta di una delle più famose, se non la più famosa, delle canzoni, White Christmas, Bianco Natale, nella versione di Bing Crosby. Ed eccoci di nuovo in studio, e prima di introdurre il secondo graditissimo ospite, Gesi leggerà una poesia di Elisa Sala Borin. Poesia tipica natalizia, difatti si intitola Natale. Non chiedetemi perché, ma io sento in questa notte santa odore di buono, di magico ed antico, che mi riporta in quella terra riarsa, amara e lontana, dove pace è una parola sconosciuta. Oh mio Signore, ti prego, fa che il ricordo del neonato Gesù porti la terra promessa a tutti gli uomini di buona volontà e buon Natale. E grazie naturalmente Gesi. Andiamo ad introdurre il secondo illustre ospite, che è conosciutissimo naturalmente da trevisani e non solo, che è l'uomo del Tabaro, Tiziano Spigariola. Buonasera Tiziano. Buonasera Tiziano. Buonasera a voi, buonasera ai nostri ascoltatori e buon Natale, buon Natale a tutti. Buon Natale. Essere qui per me è una gioia immensa e un grande onore, perché esserci a Natale è davvero una cosa magica, e quindi l'avermi voluto qui in questa trasmissione, ripeto, è un grandissimo onore per me. Grazie. Ma anche a tutti per voi. Noi però, è reciproco. Sì. Lei è una persona validissima. Di che cosa ci parlerà stasera? Beh, Natale, tradizioni, sì, sì. Panevin. Ah. Sì. Panevin che, diciamo, segue il Natale, è un inno alla terra, la terra come legame indissolubile, e un grande rito propiziatorio, il sacro fuoco. Ma scusi, da quanti secoli sarà che esiste questa... Ma potrei dire che si perde nella notte dei tempi. Riti celtici e forse non solo. Poi a dire, serve a rischiarare la strada dei magi. Ma sì, perché è proprio il giorno, il Panevin è il giorno prima dell'Epifania. Esatto. Allora, il termine Panevin, pane e vino, esemplifica la tensione al cibo attraverso due dei suoi prodotti più significativi, direi le specie divine. E questa denominazione parrebbe, come si scrive da più parti, essere stata colta dalla religione cristiana, ma dicono anche sovrapponendola ad una precedente data l'assoluta arcaicità del rito. Eh sì, quindi sarà proprio prima della cristianità, prima che nasca il cristianesimo, forse era già una tradizione pagana. Certo, assolutamente. E poi, a dire una cosa interessante, la scelta del luogo del rogo, cioè dove il Panevin veniva fatto, coincideva col campo più produttivo e comodo per richiamare l'abbondanza. Esso doveva poi essere in posizione elevata, più vicina cioè al cielo, al divino, e dominante possibilmente gli altri campi, su cui doveva essere irradiata la luce benefica. Ma i contadini credevano molto di, se il fuoco andava a destra voleva dire una cosa, se il fuoco andava a sinistra. Assolutamente. I vecchi traevano auspici per la novella annata guardando la direzione presa da Efaive. Se il fun va a mattina, c'ho il sul sacco e va farina. Auspicio negativo. Se il fun va a meodì, polenta così e così. Annata mediocre. Se il fun va verso sera, piena la caliera. Oh. Se il fun va in ver la bassa, piena la casa, ancora abbondanza. Dalla velocità di sviluppo del fumo si pronosticava l'andamento meteorologico. Fun galivo, tempo cattivo. Fun zavaria, buon tempo sarà. Scusa, cosa vuol dire zavaria? Perché... Vuol dire un fumo arrabbiato, veloce, sì, che sì, sale sì. improvvisamente, che riscende, che un fumo nervoso, ecco. Sì. Un fumo attivo. Sì. Mentre un fum galivo voleva dire un fumo calmo, tranquillo, regolare. Se poi tornava in basso il fumo, gli astanti se ne facevano investire, poiché ciò era considerato assolutamente benaugurante per la salute. Menono disea, oltre che inciucar, e il preserva, e po, e il fumo, va dai bei. Il fumo va dai bei. E poi c'è questa tradizione anche del brulè, del vin brulè e della pinsa. Sì, allora, per quanto riguarda il vin brulè, diciamo, è successo che di solito faceva molto freddo e quindi si è pensata all'unica bevanda calda che al tempo si potesse avere, vin cotto o brusà, con spezie ovviamente, con mele, con brocchette di garofano, cannella e con tutto quel poco che si poteva avere allora nelle case. Ma la cosa più interessante relativa alla pinsa di cui parlavi prima era che i capi famiglia alla fine del panevin erano soliti asportare un tizzone ardente del panevin con cui andavano ad accendere il fuoco di casa, considerato fuoco sacro. Allora lì, con quelle braci e poi con quelle ceneri, veniva cotta la pinsa. Sì, adesso poi non si fa più così, ma insomma... Adesso... Si prepara tutto pronto ormai. Diciamo che c'è un libro intitolato... un libro di ricette intitolato Quel pirla del cuoco che incomincia per dire sulla pinsa prendete la chiave della macchina, andate dal fornaio più vicino, compratela e sicuramente sarà migliore di quella che riuscirete a fare voi. Come si vede, molto, anche scherzosamente purtroppo certo. I tempi sono passati. Esatto. Ma io l'ho vista già da un fornaio, sì, ancora un mese fa. Ma poi sul panevin c'erano anche canti scherzosi, ma anche propiziatori. Uno degli scherzosi, per esempio, era pane, vin, avecia, supa e camin, avecia, supa e cuate, pan e latte. Ma invocavano comunque una l'avere del cibo. Altre, per esempio, dice parla di sanità e di cibo, e il pan e il vin, che Dio ne dà la sanità, e il pan e il vin, e ancora pan e ancora vin e luganega. Diciamo che erano ovviamente relativi alla soddisfazione dei bisogni primari. Sì, esatto. Ci mettevano anche la luganica in mezzo. Sa, non guastava se veniva qualcosa in, certo, più del pan e, certo, del vin. Tenendo, certo, conto che c'è sempre pigiorni che luganica. Esattamente. sì, questo è. Comunque è una bella tradizione quella del pan e il vin. Beh, allora ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo. Che canzone ci ascoltiamo, Antonio? E questa volta ci ascoltiamo un medley di canzoni natalizie da parte di Natalie Cole, la figlia di Nat King Cole. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Beep. you're listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Or we'll face unafraid those plans that we made. Walking in a winter wonderland, yeah. Walking in a winter wonderland. Keep on walking, yeah. Just keep on walking. Well, keep on walking in a winter wonderland. Eccoci di nuovo in studio, ma io sono convinta di una cosa, che i preparativi per il Natale, per le feste, sia più suggestivo quasi che le feste stesse, cioè anche queste, tutte queste, ecco, tutte queste luminarie, tutti questi preparativi. Però a me non piace che adesso usi così questa usanza di cominciare a illuminare le vetrine 2 mesi prima. Diciamo che il Natale da evento dell'anima e da punto di riferimento per lo stare assieme, per rinsaldare ancora questa, il senso di questa capanna, di questa vita in una comunità che è la famiglia, è diventato un business commerciale. Tanto per non far nomi, il, mi sembra, 4 o l'8 di settembre, se non ricordo male, IKEA aveva già allestito il suo spazio natalizio. Se sono esagerazioni, quindi, che non fanno bene, io no, ritengo, cioè non fanno bene, sono è un po' una istigazione ad acquistare, e questo è un modello che credo sia ormai in via di estinzione. Ma fra poco io credo che saremo liberati da tutto questo, perché quando i soldi mancheranno, ecco, completamente, si ritornerà alla sobrietà, non si comprerà più niente, e quindi il Natale lo faremo forse con qualche musetto, ma soprattutto in compagnia, stando assieme, che per me è la cosa più importante. Adesso invece fanno Natale, poi il 26 via, tutti via in montagna, a sciare, andare. Sì, io le feste le vedo in maniera diversa, anche Capodanno, l'ultimo dell'anno, lo vedo una bella festa in famiglia, giocare magari quei giochi che si facevano una volta di società, magari una cenetta così. Ma è proprio un modello di sviluppo, naturalmente, ma e quindi non è detto che non si possa, come dire, o non si debba, come preconizzano molti, ritornare a uno stile di vita più sobrio, più contenuto, diciamo, di una decrescita felice, se vogliamo. Ecco, al di là della crisi o non crisi, io confido molto nella saggezza umana, poi alla fine. Il tempo perso sarà ritrovato. Qualcuno un giorno, tanto tempo fa, scrisse Alla ricerca del tempo perduto. Sì. Chi è che ha scritto questo libro? Proust, ecco, sì, appunto. Ma da noi, a Mantova, la vigilia di Natale, una volta almeno, perché adesso non lo so, usava a mangiare l'anguilla marinata. Oh, sì. Da voi non mi pare che sia così, no? Ma la vigilia sicuramente è sempre, lo dice il termine, pesce, no? Ma solo che, allora, l'antica tradizione, io ho avuto la possibilità e il piacere di viverla, e quando non si poteva acquistare il pesce, diciamo dal pescatore, dal pescivendolo, si andava a pescarlo. Si andava a pescarlo nei canali, nei fossati, e le tinche, i lucci, qualche anguilla, eccetera, e quella era la vigilia con il pesce d'acqua dolce dei nostri territori. Quando, ancora sì. I corsi d'acqua erano naturalmente praticabili per questo... Quando ancora i corsi d'acqua erano in queste condizioni ottimali. In queste condizioni. E il Natale era costituito da, beh, anche adesso mangiano il capone, ma meno adesso, mi pare che il capone, meno, c'erano i tortellini, o più che tortellini, allora facevano tagliatelle in casa. Sì. Adesso ci sono tante cose. E l'ultimo dell'anno, come si passava qui una volta, tanto tempo fa? L'ultimo dell'anno è sempre stato, diciamo, dipendentemente dalle possibilità di ognuno, ovviamente, delle famiglie, ma era stata sempre un po' una festa per lasciare, una festa di speranza, no? Perché si dava addio al vecchio anno con tutte le sue gioie, ma anche con tutte le sue amarezze, e c'era la speranza, si voleva a tutti i costi sperare in qualcosa di migliore, di diverso, eccetera. Ecco, tradizioni ce ne sono dappertutto in tutta Italia, ad esempio cose vecchie buttate via, sì, piatti, sì, e altre cose, eccetera, centro, eccetera, soprattutto, sì. A Roma, diciamo, ecco, il centro, esatto. Però il messaggio era questo, ecco, togliersi i panni di un vissuto che si voleva cancellare, in parte ricordare, in parte cancellare, e con la speranza del nuovo percorso. Non so se voi vi ricordate, io almeno ricordo che esistevano dei calendari con dei fogliettini, ogni giorno si staccava un fogliettino. Certo, e mi piaceva, sì, sì, talmente tanto quando ero bambina, così, non lo so, mi dava un senso di staccare un fogliettino. Un ti conto pareva alla che... rovescia, sì, diciamo, sì, ecco. Non è che si pensasse, un giorno in meno, no, era bello, mi piaceva vedere questo calendario con questo blocchetto. Diciamo, sì, la cognizione del tempo era adesso anche molto sono... diversa, adesso sì, è stato, certo, c'è stata una brusca accelerazione, occorre probabilmente tornare a decelerare per ritornare a ritmi più consoni all'essere umano, io ritengo, non so se siete d'accordo. Rivendico sempre l'antico slogan della Congrega del Tabaro: un passo indietro verso il futuro, un passo avanti verso il passato. Esatto, questa è la saggezza, saggezza contadina. Sì, ma spieghiamo con che intendimento lei dice questa cosa. Ma con l'intendimento che ha detto Antonio, con la speranza che si possa un attimino rallentare, non il progresso, quello deve continuare assolutamente per farci star meglio alla fine, per migliorare le condizioni sociali, ma soprattutto anche mediche. Sono stati fatti dei passi di salute, sono stati fatti dei passi da gigante in 40 anni. E quindi, insomma, guai se non fosse così e se non continuasse questa meravigliosa ricerca, eccetera. Però l'uomo, l'essere umano, io auspico debba trovare una dimensione più naturale, più normale, più vicina alla terra, alla natura e a un ritmo biologico, ecco, alla fine. Non a una forzatura, diciamo. Sì, perché tante volte tutti questi consumismi sono forzature. Come anche polli in batteria, diciamo, che potrebbe essere questa un'immagine. Ecco, diciamo, io una delle cose che consiglio, perché da qualche anno la pratico, per esempio, capisco che negli alveari in cui molti di noi sono costretti, è chiaro che è difficile, ma per chi ha una casa da solo, in qualche modo qualche stanza che può gestire da solo senza che ci siano impianti condominiali, eccetera eccetera, mettete una stufa a legna, tagliate la legna, spaccate la legna con l'accetta, eccetera eccetera. C'è una preparazione, ecco, il gusto della preparazione che sicuramente è sacrificio, no? Perché ormai la società consumistica purtroppo ci ha abituati a mettere una tesserina di plastica da qualche parte, schiacciare uno, due, tre bottoni e poi esce la cosa già pronta, fatta. La filosofia della facilità. Quindi, esatto, la facilità, no? E quindi dice, ma va bene così perché risparmio tempo, perché ecco. Ritornare al gusto della preparazione, ecco, no? Come dicevo io prima. Prima tu dicevi che la pasta fatta in casa, sì. Ecco, no? Oh, mia nonna, vedessi con che velocità faceva la pasta. Esatto, è una cosa semplicissima. Tant'è che per passione anche mio figlio da qualche tempo incomincia a fare ste cose, no? Con la macchina però. Con la con la macchina per prima la tira e poi ovviamente alla macchinetta per tirare meglio i fogli e poi se la vuole tagliare a mano la taglia a mano, se la vuole tagliare con la macchina la invece l'altra usava macchinetta. Proprio che facevano la sfoglia, la tiravano sottile sì. E dopo col coltello la tagliavano. Era bellissimo. Sì. Il profumo che avevano le uova, che oggi non ce l'hanno più quel profumo, Io utilizzo ancora il coltello. Ah, benissimo. Allora, la prossima canzone. La prossima canzone è una canzone, diciamo, che è tra le più conosciute, sì. In italiano questa volta. Questa volta è Tu scendi dalle stelle di Christian. Grotta Ed eccoci di nuovo in studio e lasciamo la parola di nuovo a Tiziano Spigarioni. E allora inverno, freddo, gelo, una volta molto di più, e che cosa se non tabari? Sora i cavai, col tabaro i omeni va, come spiriti i passa, e vento i fa. E il vento, e il resto il fa. Che bello, che bello. Ricordi di tempi lontani. Ne hai un'altra? Dopo parliamo di... Un'altra... Per dire... che l'inverno porta stasi, tranquillità, la terra si ferma e anche gli uomini un po' si fermano, forse a pensare. E a proposito di pensare, titolo di questa poesia è A pensarghe. Quanto piccolo che sei il mondo. Non sta a aver pressa, non sta a scampar, e il mondo te si ti. È un messaggio. Bella, che bella. La saggezza dei contadini. Sono brevi, ma bellissime, proprio piene di contenuto. Molto intense. E sul filò, ce ne sono poesie sul filò? Ma sul filò... precisamente non ho scritto niente, anche perché le mie tematiche, diciamo, sono un po' diverse, tendo a tenere e a sentire molto di più le tematiche legate all'anima, allora, che a quelle, ecco, del fare. No? Allora sentiamo qualche... L'anima e il fare sono legate, sono indissolubili, perché sono il quotidiano. Beh, certo. Sono il quotidiano dell'essere umano. E riprendendo un vecchio detto, ischei se dise... noi fa felicità, figuremo se a miseria. E dopo, fra me e me, ogni tanto penso che se può scrivere di tutto, ma poi mi dico, sarà vero? È un messaggio, godiamoci, perché alla fine niente è per sempre, neanche a memoria. Ah, bella. Questa è una cosa decisamente bella, saggia, è vero. Effettivamente. È vero, e mi sono resa conto di questa forma di saggezza proprio ascoltando una canzone di Jacques Brel, ma proprio... come si chiama? Non mi ricordo più che titolo ha la canzone di Jacques Brel che parla delle che insomma che ci si ne quitte pas, ne me quitte pas, non lasciarmi. Cioè, in sostanza, a una certa età non ci si ricorda, addirittura non si ama più, non ci si ricorda più di niente, cioè, perché, come diceva Tiziano, si perde la memoria, insomma. Triste condizione, ma che vogliamo allontanare, triste, naturalmente. Noi vogliamo allontanarla finché si può allontanarla, insomma. Esatto. Però a parte che Jacques Brel ha scritto delle canzoni stupende, ma proprio è una saggezza veramente grande. Straordinaria. Perché io penso che la nostra obbligazione nella vita sia una sola.